problema più grande nella comprensione del peccato, quello che viene chiamato tra virgolette il peccato originale, è che la storia viene vista in sé e per sé. Il fatto è semplicemente che il tema fondamentale è l'obbedienza a Dio e il senso dell'obbedienza a Dio. Se noi siamo obbedienti a Dio, diamo a Dio il primo posto, riconosciamo a Dio il posto di Dio e a noi il nostro esatto ruolo e chi realmente siamo, ogni cosa è in ordine e tutto funziona bene. Nella narrazione della Genesi vi sono dei temi così importanti e così universali, raccontati in una maniera così semplice e così accessibile, che le due cose sembrerebbero totalmente inconciliabili, ma evidentemente non lo sono. La narrazione di un serpente che va a parlare con una donna, ma dalla bocca del serpente escono fuori parole di una grandissima profondità. Il serpente dice: non è vero che morirete. E la cosa più triste è che è vero, cioè non dice una bugia nel senso completo del termine, ma una mezza bugia, dice una mezza verità, una mezza bugia. Prende le parole di Dio e le mette nella sua bocca, e le parole che erano verità riesce a renderle menzogna senza cambiare più di tanto, perché l'uomo non sarebbe morto sul momento. E la morte spirituale della quale parlava Dio all'uomo non era la cessazione dell'esistenza fisica, ma la cessazione di quel rapporto con Dio che creava e dava luogo alla vera esistenza, alla vita vera, piena, nel senso del termine in cui si parla di vita nella Bibbia. Allora la donna vede il frutto e gli piace, e le piace. E il comandamento di Dio è stato: non mangiate di questo. Quindi se la donna mangia del frutto, ne mangia perché non crede più che quello che Dio aveva detto era vero. Cioè in quel momento la donna disconosce a Dio il ruolo di Dio, disconosce l'amorevole paternità di Dio che dà un comandamento col fine di tutelare l'incolumità dei suoi figli, si siede sul trono di Dio e vuole agire come se fosse Dio di se stessa, anche sulla scorta delle parole che le aveva detto il serpente: se ne mangiate voi diventerete come Dio. Anche questo non era totalmente falso, perché diventa come Dio la donna, nel senso che si aprono gli occhi, acquisisce la conoscenza del bene e del male, che ha un profondo significato e che significa, al di là della valenza letterale, che l'uomo decide arbitrariamente, personalmente, spodestando Dio dal suo trono e mettendosi sul trono di Dio, l'uomo decide ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. Quindi il peccato in sé della Genesi, visto in una maniera semplice come il raccogliere della mela, che mela non è perché la Bibbia parla di frutto, ha un significato così profondo e così universale, perché ce la prendiamo con Adamo e con Eva, ma noi stessi oggi commettiamo l'esatto identico peccato che hanno commesso loro. Allora, riconoscendo sia la validità della parola di Dio, che quello che la parola di Dio ci dice è vero, e che quel seme del peccato ci viene trasmesso, che siamo noi tutti sotto il peccato, perché il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva, peccarono. Sempre nel libro della Genesi, un altro punto importante che riguarda l'obbedienza dell'uomo e le conseguenze dell'obbedienza e della disobbedienza dell'uomo sono nel rapporto fra Caino e Abele. questo paradosso mi ha sempre colpito in una maniera particolare. L'invidia di Caino per Abele. Caino non capisce perché l'offerta di Abele è più gradita a Dio rispetto alla sua. Anche oggi, secondo me, alcune persone non capiscono perché alcune persone sono gradite a Dio ed altre no. E la risposta è semplice ed ancora una volta dipende dal fatto di chi si incorona come Dio e chi si decide di mettere sul posto, sul trono di Dio. Se decidiamo di mettere noi stessi, la nostra ragione, il nostro intendimento, la nostra buona volontà, o se mettiamo Dio sul trono e ascoltiamo quello che ci dice Dio. Da una parte Abele offre un sacrificio di frutta, e lui era un uomo che coltivava la terra. L'offerta di Caino doveva essere profumata, doveva essere bellissima, doveva essere bella da vedere, doveva essere... Nell'intelligenza di Caino, secondo me, era l'offerta che Dio doveva gradire di più, perché era più bella di quella di Abele. Abele non era un coltivatore della terra, Abele era un allevatore di animali. Abele offre i suoi animali a Dio, e l'offerta di un animale, scannare un animale, l'odore e l'aspetto del sangue è ripugnante, no? Non è un'offerta così bella. Perché Dio la gradisce? Secondo me, si chiede Caino nella sua mente, un'offerta così brutta, così ripugnante, Dio la gradisce, è la mia offerta bella, Dio non la gradisce, perché la tua offerta bella è secondo la tua intelligenza. Tu metti te stesso sul trono di Dio e gli dici a Dio: guarda che bella questa offerta che ti faccio, perché io decido che questa è l'offerta che ti voglio fare. Abele invece mette Dio sul trono e Dio dice: offri il tuo bestiame. E sebbene l'offerta non sia così gradevole come quella di Caino, è un'offerta secondo la volontà di Dio, perché Abele, obbedendo a Dio, Abele non capendo che cosa stava facendo, perché chi obbedisce spesso non capisce, perché l'obbedienza è necessaria, perché dove non c'è la comprensione. Cioè, se tutti capissimo la volontà di Dio al 100%, tutti faremmo automaticamente la volontà di Dio. Ma siccome non abbiamo l'onniscienza, la sapienza, la bontà, la grandezza, il potere di Dio, non riusciamo a capire tutto, non abbiamo la visione d'insieme del tutto e siamo limitati, quindi dobbiamo obbedire, perché per fare la cosa giusta, non sapendo tutto, non conoscendo tutto il quadro della situazione, dobbiamo obbedire. Lo stesso accade all'interno di un'azienda. L'operaio che sta in un'azienda non può capire perché deve fare certe cose e non può capire il senso di buona parte delle cose che fa, perché il datore di lavoro lo obbliga a fare certe cose, a farle in un certo modo, in un certo momento, in un certo luogo e così via. Oddio, alcuni magari riescono a capirlo, ma stiamo supponendo il fatto che alcuni non riescano a capirlo. Ma il canone di condotta di un operaio lo obbliga a tenere una certa condotta. Tenendo la condotta giusta un operaio, tenendo la condotta giusta un altro operaio, tenendo la condotta giusta un altro operaio, supponendo che chi sta alla cima li ha guidati nella maniera giusta, l'azienda funziona. Se ognuno fa come cavolo gli pare, l'azienda non può funzionare. Stando quindi Dio al capo dell'universo e del mondo e di ogni cosa, dicendoci lui per nostro difetto di capacità che cosa è giusto che noi facciamo, quindi ci aiuta, nel senso, il comandamento non è un'imposizione, il comandamento è un aiuto. Tu non ci arrivi a capire la grande figura dell'universo, quello che è giusto all'interno di questo, del mondo, per la tua vita, per la vita di chi ti sta accanto, per il benessere dell'umanità, per il benessere di tutto, perché per fare la cosa giusta tu non ci arrivi. Io Dio te lo spiego, tu obbedisci a quello che ti dico io, E Abele obbedisce, e nell'obbedienza di Abele Dio manifesta la sua fedeltà. Quindi questo, perché questa riflessione? Perché mi piace la profondità della Bibbia, mi piace la profondità della parola di Dio, mi piace l'universalità della parola di Dio, mi piace l'attualità della parola di Dio. La parola di Dio non era vera 2000 anni fa, la parola di Dio è vera anche oggi. Chi vede nella semplicità della parola di Dio una assenza di profondità, si sbaglia. La grandezza della Bibbia e della parola di Dio è proprio questa, che con elementi semplici, senza rendere il discorso inaccessibile a chiunque, quindi chiunque la legge la capisce, riesce a trasmettere, grazie allo Spirito Santo che l'ha interpretata, che l'ha ispirata, perché questa opera non è naturale ed umana, ma è spirituale e soprannaturale. Grazie all'intervento dello Spirito Santo rende la Bibbia ci trasmette, rende degli argomenti e degli insegnamenti, perché parliamo anche di insegnamenti in questo caso, attuali, veri per la nostra vita ed universali. Ciò che accadde nel giardino dell'Eden accade pure oggi. E questo che dico, che mi sorprende quando la gente dice che non approva, non gli piace, non trova interessante e così via, la narrazione della Genesi. La Genesi ha una narrazione che è semplicissima e allo stesso tempo esprime delle verità così profonde che è qualcosa di spettacolare, di impensabile. Non so quante altre opere letterarie, immaginiamo che la Bibbia sia, perché lo è anche, un'opera letteraria, quante opere letterarie riescono ad essere così profonde, essendo così semplici? Perché quello che la gente dice, vabbè, è ridicolo la narrazione della Genesi, non è più attuale, il peccato non è attuale. Ma se succede oggi stesso e ogni giorno e nella vita di ognuno di noi, perché tutti abbiamo peccato, succede esattamente quello che leggiamo nelle pagine della Genesi. Con le nostre stesse vite possiamo testimoniare che quello che c'è scritto nelle prime pagine della Bibbia è vero ed attuale. Anche noi vediamo il frutto che Dio ha proibito e anche noi ci illudiamo di trovare le motivazioni valide e giuste per la nostra ragione, per poterlo raccogliere e fare di testa nostra allo stesso modo. Anche noi, come Caino e Abele, vogliamo offrire a Dio quello che diciamo noi e non quello che dice Lui. E anche noi cerchiamo di soffocare l'evidenza del nostro misfatto, della nostra incapacità di obbedire al comandamento di Dio, come Abele mise a tacere, Caino mise a tacere Abele, perché quando metti a tacere la voce della tua coscienza, la soffochi, la metti e Dio passeggia là e passa e dice, ma dov'è Abele? Dov'è la tua coscienza? La mia coscienza, ma io non lo so, non mi ricordo, perché sono io qua, la mia coscienza, non mi ricordo che mi abbia detto qualcosa. Ho fatto la cosa giusta, guarda, ho offerto tutta la frutta che c'avevo, il meglio, guarda, ti ho fatto un'offerta spettacolare. E la nostra coscienza è lì che grida, l'abbiamo strangolata, buttata a terra, scannata e ammazzata, e grida la nostra colpevolezza. Questo è quanto. Ora, capisco che una riflessione fatta in auto lascia il tempo che trova, il rumore di sottofondo è un po' fastidioso, però volevo condividere questo pensiero che avevo in mente e dare un senso anche ed evitare comunque che il tempo della strada fosse perso questa mattina dalla chiesa a casa. È bastato proprio esattamente per questa piccola discussione. Sono quasi arrivato, adesso parcheggio e faccio la mia domenica in famiglia. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori.